il nulla specifico dei tuoi tempi. Non capisco dove sei quando mi manchi. Quale dovere annerisce una metà di te, mentre l'altra sta con me in paradiso? Dovevamo saperlo noi, e lo sapevamo. Potevamo farlo noi, ma non sapevamo. E lo senti vicino, il destino della foglia, ma non guardi affatto la vita della biscia. E quando parli è per ricostruire il nulla, tutto il resto lo capisco come sempre dal tuo sguardo. Ma dovevamo saperlo noi, e lo sapevamo. Dovevamo saperlo noi, e ne sapevamo. Ma qual è il nulla specifico dei tuoi tempi? Non capisco quale violenza annerisce metà di te. Visione sul tempo da una panchina in un parco di periferia, e rumore di alberi, e lo sai che la loro posizione è importante. Dove